Su info salute e società punto radio, a cura di Soroptimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 2 marca trevigiana. Ben ritrovati da SoInfo, la rubrica radiofonica che settimanalmente negli ultimi 5 mesi vi ha accompagnato nell'approfondimento dei temi della salute e della società, osservandoli con sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Questa settimana concludiamo il nostro percorso e chiudiamo il tema che abbiamo trattato nell'ultimo mese, la menopausa, con il dottor Enrico Busato, primario dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Approfondiamo in particolare quali siano i rischi a livello oncologico durante questa fase della vita delle donne. Parleremo oggi di rischio oncologico in menopausa. Vedremo quali sono i rischi di patologie tumorali durante questo periodo della vita della donna e affronteremo in un successivo momento la parte relativa alla prevenzione di questo rischio. Sappiamo che l'età della menopausa è l'epoca della vita della donna in cui vengono effettuati maggiori diagnosi di neoplasie. I tumori che più frequentemente si riscontrano in questo periodo sono 4. Al primo posto ritroviamo il tumore della mammella, al secondo posto si trova il tumore dell'endometrio, subito dopo ritroviamo il tumore del colon retto e come quarta patologia tumorale ritroviamo il tumore dell'ovaio. Sappiamo che anche se i più moderni approcci terapeutici, medici e chirurgici hanno portato a un forte miglioramento della prognosi favorevole in oltre l'80% dei casi a 5 anni, non si può sottolineare come ancora oggi troppi fattori di rischio non vengono sufficientemente considerati. Sappiamo che quasi il 25% delle donne fuma, il 34-35% delle donne hanno un'attività sedentaria e soprattutto l'accesso agli screening per la patologia del tumore del collo dell'utero, quindi il pap test, della ricerca sangue occulto e della mammografia, sono purtroppo non eseguiti da un numero elevato di donne. Perché quali sono i fattori di rischio di questi tumori? Sappiamo che da una parte per la mammella e l'endometrio riscontriamo dei fattori legati alla vita riproduttiva, l'epoca in cui una donna ha avuto gravidanze, il numero di gravidanze, quanto tempo ha allattato al seno, e fattori anche che sono legati a una costituzione ormonale, ad esempio l'età di comparsa del primo ciclo mestruale e quando compare anche la menopausa. E un ruolo importante, sempre più questo sta assumendo una rilevanza notevole, è dato dall'alimentazione. Sappiamo che una sana alimentazione basata su una dieta, la dieta mediterranea, oramai ha riscontrato un notevole applauso sia da un punto di vista soprattutto scientifico in varie patologie, e si sa che anche una sana alimentazione ha un'influenza sulla patologia tumorale. Sappiamo infatti che una corretta alimentazione, da alcuni lavori è stato documentato che può far sì che un tumore su 3 possa essere evitato. Per quanto riguarda altre abitudini, anche il fumo gioca un ruolo importante. Riuscire a smettere di fumare e anche l'alcol, riuscire a ridurre in maniera proporzionale anche le abitudini legate all'assunzione di alcolici, si è visto che anche queste hanno un notevole beneficio per la prevenzione della patologia tumorale. So